Non è la sociologia solita, voleva dire, non no? La sociologia. Non è la famosa, tra virgolette, ma è. Non è perché quando il professore che ti studia legale, l'etica protestante. Se vuole ne parliamo, vuole che ne parliamo. No, già l'ho letto quest'estate, bellissimo. Dovete capire che però per me che sono un sociologo, il fatto che vengano persone che non vogliono sentire parlare di sociologia non è il massimo. No, ho capito, ho capito. Sì, sì, ho capito esattamente. Taglio che è completamente, cioè, innovatore da quel punto di vista lì. Ho capito che no, d'accordo. Ecco, la cosa di Skype non è male, cosa ci fa in testa voi? Piuttosto che. È che Skype devi comunque avere uno strumento per cui deve essere così. Se sei al lavoro non è che con Skype. se sei al lavoro no, d'accordo. Mentre se tu hai la registrazione lo puoi ascoltare. Beh, noi abbiamo comunque tutte le lezioni registrate, vero? Con uno strumento però io e lui sì, perché io sono mancato, ma io sono mancato anche io. Il tuo soccorso funziona. Era per quello che mi è venuto anche la registrazione allo Skype, deve essere comunque collegato al computer, che va bene. E non si può registrare quello, vero? Anche. Si può registrare, cioè si può, però devi avere nel software, per esempio se io faccio registrare, perché ci sono dei software che registri lo schermo. Cioè ti dovresti attaccare in pratica e registrare, anche se non puoi stare a sentire. Sì, non hai bisogno di sentire, basta che tu avvii il software quando si inizia la lezione e fai registrazione direttamente. Comunque, cioè, il materiale che potrei mettere in rete. Se ne servono le registrazioni, vediamo, lei ce le ha dato il numero di lezione, la terza. Purtroppo sì. Anche io della terza, perché anche la seconda l'ho lasciata nel riflesso, dall'altra parte. Vabbè, vediamo un po', se no io posso caricare parte delle slide, ma sono i pezzi di libro, non è che ci sia niente. Ha detto che se quello trova le chiavi ci chiudo dentro la già da vedere. Noi rischiamo sempre se il presidente. Non funziona? No, non c'è corrente, non so veramente cosa. Bilancia è gente che non la studiamo, non l'ha fatto. Ce l'ha rende nella presa. Posto? Sì. Grazie, grazie, arrivederci. Olè. Posso fare un sondaggio? Sì. Ti piace di Simpli Rap come gruppo di conoscenza? Sì. Sì? Ecco. Sì. No, anche se adesso li conosco non mi piace. No, li conosco. Anche se adesso sono un po'. Sono un po' di smalto ovviamente. Perché... Cioè, dico che sarà 10 anni fa quando ho avuto una canzone che so se Simpli Rap. Ne hanno fatte altre. No, no, no, ma sì, io non le avevo mai ascoltate, poi ultimamente invece ho cominciato un po' a ascoltarle, ero curioso di sapere. Sì, sì. Beh no, il cantante ha una voce che è spettacolare. Sì, sì, una voce, ma sono proprio una tela musicale particolare. Va bene. Allora, oggi... Partiamo con questo testo qua, l'analisi dei reticoli, d'accordo? Dopo lo sguardo che gli ha lanciato, ecco. Un altro libro. Allora, cioè, nel senso che naturalmente la logica del percorso è fatta in modo da darvi degli strumenti utili che sono questi libri, d'accordo? Ieri abbiamo concluso la trattazione, la presentazione, diciamo così, in maniera più generale del paradigma di rete, gli aspetti epistemologici, guardando il capitolo della dedicola finale, gli ultimi due, in modo particolare poi alla fine quello sulla semantizzazione delle reti, oggi dobbiamo cominciare a guardarle queste reti, perché dobbiamo cominciare a capire come si raccolgono i dati, ok? Tanto più bravi saremo a vedere in maniera precisa queste parti, tanto più spazio ci resterà per fare degli esempi applicativi. D'accordo? Secondo me quell'aspetto può essere interessante, però bisogna arrivarci non avendo perso nessuno dei pezzi precedenti, perché poi queste cose diventeranno assodate. D'accordo? Allora, cominciamo a vedere che cos'è la social network analysis o analisi dei reticoli sociali, tanto perché parliamo di reticoli, no? Potete trovare dei manuali in italiano che fanno riferimento all'analisi delle reti, l'analisi di rete, invece che di reticoli, no? Parliamo di reticoli perché in genere quando si pensa alla rete è semplicemente una faccenda, diciamo così, di espressioni, si pensa a qualcosa di questo tipo, cioè tipo alla rete da pesca, qualcosa a maglie ripetute, no? Questa è una rete, diciamo così. Invece, quasi mai le reti hanno questa semplicità nella loro organizzazione, nella loro presentazione. Allora, il concetto di reticoli è un po' più aperto alla contingenza, alla differenziazione. Infatti, in inglese abbiamo network, così come pure abbiamo net, però net fa più riferimento alla rete, network è un'altra cosa. In francese è uguale, abbiamo filet, che è la rete, ma l'analisi dei reticoli sociali, l'analisi dei réseaux sociaux, réseau, no? Si intende appunto, c'è questa differenza di termini. C'è anche in italiano, trovate questo ragionamento nella parte introduttiva di Chiesi, però diciamo che in italiano troviamo sia reticoli che rete, anche se sarebbe di essere più corretto parlare di reticoli. A che cosa serve l'analisi dei reticoli sociali? Serve a definire operativamente, cioè a trasformare in pratica tutto quello che abbiamo visto finora come esigenza teorica, anche con degli esempi abbiamo visto, però adesso occorre passare accostarci alla dimensione teorica. Quindi adesso vediamo delle cose che segnalato il capitolo di Chiesi a quale potete fare riferimento. Che cos'è l'analisi dei reticoli sociali? L'analisi dei reticoli sociali consiste in un insieme di procedure per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e il controllo di ipotesi relativi a dati di tipo relazionale, cioè a dati sulle relazioni degli individui e sulla composizione di queste relazioni, cioè relative alle reti di questi individui. Così come le tecniche di inchiesta, la ricerca Sarsfield, consistono in un insieme di procedure per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e il controllo delle ipotesi relative a dati di tipo individuale. E su questo direi che non dobbiamo aggiungere nulla, o no? È chiara questa differenza, no? Bene, allora, se io ho in mente una ipotesi di ricerca fondata su le caratteristiche individuali, ipotizzerò che i soggetti che hanno conseguito questo titolo di studio ottengano quel tipo specifico di lavoro, ok? Caratteristica individuale. Ipotesi sulle caratteristiche degli individui. Ipotesi sulle relazioni, ipotizzo che i soggetti che hanno un certo tipo di rete otterranno un certo tipo di lavoro. Parto dalle caratteristiche delle relazioni sociali. Per cui uno può aspettare un albo per usare questo titolo di studio, ed è un modo, aspettiamoci sia un albo per gli specialisti di emergenza e poi ci iscriviamo all'albo, va bene? Oppure può... No, poi ci tocca pagare l'albo. Beh certo, che non è mega gratuito, ci sarà una tassa di iscrizione o qualcosa del genere, no? Oppure può dire, beh, cavolo, sto imparando queste cose, vediamo se posso cominciare a spendere dentro qualche organizzazione che si occupa, così nascono delle relazioni, delle reti delle quali poter, come dire, mettere a disposizione degli altri le proprie competenze. Magari in futuro questo diventa un mestiere, diventa un lavoro, insomma, d'accordo? Esempio autobiografico. Perché utilizziamo l'analisi delle tipologie sociali? Perché i fenomeni sociali e la società stessa possono essere interpretati come reticoli di relazioni. Se la società è fatta di relazioni, questa tecnica è la tecnica che dobbiamo utilizzare per capire e comprendere le caratteristiche di queste relazioni. Dunque, le azioni degli attori, cioè quello che i soggetti fanno, quello che riescono a fare mentre agiscono, possono essere spiegate. Cosa vuol dire spiegate? Vi ricordate che abbiamo parlato del significato di questo termine? Cosa significa spiegare una cosa? Significa trovare delle motivazioni, delle cause. Delle cause, delle cause. Le motivazioni richiamano l'agire dell'individuo, non richiamano la soggettività. Trovare delle cause. Allora, le azioni degli individui possono essere spiegate, cioè le cause delle azioni degli individui si trovano nelle reti, cioè esse sono le azioni, l'esito di vincoli e d'opportunità emergenti dalle relazioni tra i soggetti. Allora, che cosa fa a questo punto Chiesi? Diciamo, apre questo tema e poi, più avanti, adesso vedremo, dice bene, allora, per dimostrare che queste tecniche sono utili, devo mostrare che consentono di spiegare meglio i fenomeni rispetto all'utilizzo delle tecniche tradizionali, altrimenti è inutile usarle, d'accordo? Cioè non possiamo soltanto essere convinti che la realtà sia fatta di relazioni, questo noi possiamo bearci di questa convinzione, d'accordo? Solitariamente, in maniera intima, quando stiamo a casa. Però se dobbiamo usare queste tecniche di ricerca, non è sufficiente il fatto che per noi funzionino. Dobbiamo dimostrare che spiegano dei fenomeni sociali in maniera più chiara, più completa rispetto alle altre regole. Finora noi abbiamo alle altre tecniche di ricerca. Noi finora abbiamo detto che è contraddittorio e paradossale studiare la realtà senza studiare le relazioni. Ricordate quelle lunghe citazioni tratte da alcuni autori, no? Che dicono, ma come si può vedere ogni singola deviazione rispetto alla moda statistica come un'eccezione o non vederla, no? Come si può non cogliere il meccanismo di un fenomeno sociale ma soltanto vedere delle variazioni concomitanti della caratteristica degli attributi? D'accordo, ci siamo, però bisogna analizzare qualche studio che ci faccia vedere che alcune cose che prima non erano comprensibili poi lo sono state meglio, o addirittura lo sono state prima non lo erano, utilizzando queste tecniche di ricerca. Altrimenti è inutile, non possiamo basarci soltanto sull'impostazione teorica, ok? E se qualcuno mi spiega che è una modalità di intervento in caso di emergenza eccezionale, straordinaria, è quella più giusta, ma ogni volta che la usate non funziona, cioè, voglio dire, dice, guardi, per carità, sarà condivisibile, ma bisogna che dimostri sul campo la sua, il campo in cui le tecniche di ricerca dimostrano di funzionare è il campo della ricerca. Allora, qui guardiamo un attimo, ho preparato un esempio, no? Questa è una ricerca fatta, sono alcune immagini di reti tratte dalla ricerca che ho fatto nel 2004 in una scuola elementare della provincia di Modena, no? Alcune classi della scuola elementare, e abbiamo tramite le maestre chiesto delle cose a questi bambini sulle loro relazioni, e in modo particolare i dati che vi faccio vedere adesso sono alcuni dati relativi, naturalmente in forma anonima, eccetera eccetera, a chi inviti a casa tua. Perché il tema dell'invito a casa è importante nella scuola elementare? Perché l'invito a casa, chi è che lo decide? Lo decide solo il bambino. Se fosse per mio figlio starebbe ogni pomeriggio a casa di un amico diverso. Sono le famiglie, naturalmente, no? Che tramite l'invito a casa per fare i compiti eccetera eccetera favoriscono o meno la frequentazione tra i bambini e quindi la frequentazione tra le famiglie. Perché questo tema è importante? Questa scuola è una scuola che presentava un forte, diciamo, una forte presenza di immigrati, di bambini non italiani all'interno. Allora, come abbiamo forse avuto modo già di anticipare, ci sono alcune caratteristiche delle famiglie socio-economiche che incidono sul rendimento scolastico, sulla riuscita scolastica dei bambini, anche delle classi, scuole superiori, eccetera, eccetera, no? Allora, queste caratteristiche delle famiglie possono in qualche modo essere messe in rete dalla scuola, cioè se le famiglie redistribuiscono le competenze possono in qualche modo anche potrebbero sostenere i soggetti che sono in difficoltà. Beh, voglio dire, faccio un esempio molto semplice, se c'è un bambino che ha i genitori che non parlano italiano e devono aiutarlo in prima elementare a leggere, perché poi il giorno dopo la maestra fa leggere in classe, dà anche un voto rispetto a questo, è chiaro che se è abituato, se è isolato, nel senso che non riesce a frequentare nessuno al pomeriggio, la, diciamo così, questo isolamento, questa mancanza di relazioni, di capitale sociale per il soggetto, avrà un effetto moltiplicatore, nel senso peggiorativo, sulle differenze che dipendono già dallo stato economico delle famiglie, è più che altro culturale molto spesso, non perché non siano qualificati, ma perché non hanno delle competenze base molto spesso che sono utili, per esempio all'epoca si chiamava una scuola elementare, adesso si chiamano scuole primarie, insomma, ecco. Invece se c'è una redistribuzione di queste gare, cioè se le famiglie favoriscono una frequentazione pomeridiana tra i soggetti, in qualche modo possono anche mettere in rete, aiuti tuo figlio, ma nel frattempo se c'è un bambino che ha genitori che non parlano italiano, aiuti anche lui nella lettura, d'accordo? Per quanto possa essere una semplice cosa, può essere molto importante, per esempio nelle scuole elementari, no? Quindi le relazioni tra le famiglie possono avere un effetto negativo se non ci sono, moltiplicano le differenze, fanno andare ancora peggio oppure un effetto positivo, in qualche modo producono una redistribuzione di queste competenze. Allora, questo è un esempio di dati veri raccolti su questi soggetti, ma adesso vediamo soltanto il disegno, quello che aveva provato già a fare lei con il programma. Okay? I nodi rappresentano gli individui, le linee, i legami che esistono tra loro. Il legame analizzato è chi inviti a casa tua. Quindi, se da questo soggetto parte l'invito per questo, troviamo una freccia che da questo va a quest'altro. Se è reciprocato, troviamo anche la freccia contraria. Poi, per leggere subito, perché c'è, diciamo, voi potrete poi utilizzare o una rappresentazione unicamente grafica dei dati, e quindi potete usare i colori, le dimensioni per far vedere dei fenomeni, oppure la rappresentazione matematica, naturalmente noi dedicheremo molto tempo a questa seconda, d'accordo? Però qui, visto che ne parliamo all'inizio, le forme dei nodi indicano la cittadinanza dei genitori, il cerchio tra gli italiani, il quadrato, un italiano e uno straniero, il triangolo, entrambi i genitori sono stranieri, e questo esempio non c'è nel testo, d'accordo, l'ho aggiunto io, per farvi vedere qualche rete, e i colori sono, vedete, questo è il maschio, questa è la femmina, che vivono con le famiglie di origine, qui invece c'è una differenziazione di colore, celeste e rosa, se non vivono con le famiglie di origine, cioè provengono da un processo di separazione, per esempio. Okay. La dimensione dei nodi, nei grafici che adesso vedremo, è direttamente proporzionale a quanti soggetti indicano il nodo. Per cui se un nodo non è indicato da nessuno, sarà anche piccolino nel disegno. Ok? Se è indicato da tanti soggetti, cioè quindi è uno molto invitato a casa, sarà più grande. Ok? Più un bambino invitato, più il nodo che lo rappresenta sarà più grande. Questa è una prima elementare. È una delle prime elementari di questa scuola. Vedete, allora, che cosa vediamo subito da questo grafico? Cominciamo a sviluppare qualche abilità, così. La prima cosa che notate, che cos'è? Ce n'è una ancora precedente a questa, secondo me, Perché lei mi stava per dire ci sono due gruppi. No, io no, chiedo scusa. Che ho visto è due nodi relativamente più grandi rispetto a tutti gli altri. È ancora successiva allora la cosa che voleva dire lei. Andiamo indietro. Allora lei adesso ragionando su quanti sono i legami per ogni nodo, quello della ragazza. Poi ci sono. Mi è venuto spontaneo guardare quello. No, è andata subito in maniera analitica, d'accordo? Retrocediamo, quindi siamo un po' più generali, ci sono diverse aree di connettività all'interno della rete, ok? Retrocediamo ancora precedentemente, qual è la prima informazione? I legami ci possono, i nodi li possono avere o non li possiamo. O no? Quindi la prima cosa che possiamo osservare qual è? Soggetti isolati. Esatto, tutti questi nodi si chiamano nodi isolati. E sono soggetti che non invitano e non ricevono invito da nessuno a casa loro. Ora, vi faccio notare che pur non essendo la metà dei soggetti che compongono questa classe proveniente da contesti di totale o parziale immigrazione, la metà dei non isolati proviene da famiglie immigrate, di entrambi i genitori non italiani o un genitore non italiano. Vedete che abbiamo due triangoli e un quadrato. Ricordate la leggenda che abbiamo scritto, no? Quindi qui notiamo subito qualcosa di, interessante rispetto alla gestione di questa classe. Cioè, sebbene si sia soltanto in prima, abbiamo già una struttura di invito, chiaramente dovuta alle famiglie, che le famiglie rinforzano, vedete? E che però vede un isolamento. L'unico, diciamo, gli unici soggetti provenienti da contesti di immigrazione che non sono completamente isolati sono questi due, ma non sono isolati perché invitano. La quantità di inviti ricevuti è pari a zero per entrambi i soggetti. D'accordo? Allora, questo perché è importante, no? Adesso apriamo e chiudiamo la parentesi. Quando si parla di integrazione scolastica in classe come una faccenda che riguarda le scuole e soltanto le scuole, a me a volte, insomma, no? Mi pongo delle domande, no? Perché l'integrazione non è una, come dire, un cartellino che noi ci attacchiamo sul petto, integrato, non integrato, d'accordo? Ma dipende da come si costruiscono le relazioni. E la scuola ha la durata che ha nel corso della giornata, le può favorire o no, ma devono lavorare in classe. Quindi è chiaro che c'è un discorso collegato all'integrazione sociale più generale nel territorio. Poi notiamo tre sottogruppi, no? Potremmo dire tre aree, poi tecnicamente questi si chiamano componenti all'interno della rete, e una è tutta femminile, come vedremo anche poi nelle altre case, anzi le vediamo subito, e poi giustamente ci sono dei soggetti che sono più centrali rispetto ad altri. Allora noi in un colpo d'occhio capiamo subito quali sono i leader all'interno di questa classe. E notiamo che per esempio le donne, le femmine, hanno già una divisione rispetto all'invito e già due figure distinte di leadership. Vediamo una quarta elementare, non è la stessa classe, non è un'indagine longitudinale, ma nello stesso anno è stata presa in considerazione con una guarda. Qui vedete un nodo isolato in alto a sinistra e poi il club del tè del pomeriggio al centro, no? Già bello formato, perché poi si vede qua subito che le femmine hanno una, no? Una tendenza, una capacità subito a creare più relazioni, e soprattutto le relazioni hanno un elevato livello di reciprocità. Ok? Guardatelo per esempio rispetto ai maschi, che costituiscono una rete già un po' segregata rispetto alla rete delle femmine, questo è piuttosto tipico, il sesso è un fattore di aggregazione, di età, no? E poi lo sarà naturalmente anche più avanti, e divisi in due sottogruppi. E qui abbiamo una figura di leadership in modo particolare rispetto alle altre. Come vedete, i soggetti che provengono da contesti di immigrazione sono o isolati oppure sostanzialmente marginali. Vedete, in questo caso c'è una sola indicazione qua, questo soggetto indica ma non è indicato, eccetera. Ecco, già questa analisi grafica ci fa vedere qualche informazione. E poi c'è la quinta. Sì. Sul discorso che era lì la quarta elementare rispetto alla prima elementare, influisce il fattore che magari, diciamo, la classe o il gruppo di bambini hanno già fatto un percorso assieme, per cui i legami, al di là dell'intervento della famiglia, si instaurano in una maniera diversa? Certo, sì, sì, sì, sì, sì. Questo... il fatto che nel prima elementare fossero un attimino così, perché sono piccoli, più piccoli loro, per cui dipendono integralmente dalla volontà della famiglia, quindi passi termine, sì. Rispetto a una quarta elementare in cui hanno già fatto un percorso insieme. No, ma infatti si vede subito, se noi calcolassimo la densità di queste due reti troveremmo una grossa differenza. Vedete, questa com'è, che è comunque più lasca, ci sono meno legami, eccetera. Però quello che dice lei vale. Ma rispetto ad altri indicatori di legame, ci giochi assieme in classe, eccetera, vale meno in questo caso, perché qui c'è comunque l'invito a casa, e l'invito a casa prevede la porta aperta o chiusa da parte della famiglia, anche la volontà di aprire la porta, oppure no. Però però si vede anche qua, lo vedremo ancora meglio quello che sta dicendo lei, se guardassimo i legami dentro la classe. Fa fatica alla richiesta di un bambino, credo, non so, la famiglia gliela può negare una volta, ma non gliela può negare 10 volte l'apertura della porta a un suo compagno, perché... No, questo... Cioè, non lo so, è una questione che non c'è più. Questo dipende, ma anche la propensione ad invitare qualcuno oppure no può essere in parte collegata al comportamento della famiglia, più o meno volontario, più o meno volontario, ok? Stiamo facendo il processo. No, però è bene, perché tutti questi ragionamenti che noi facciamo in maniera ipotetica qua riguardano le relazioni e non gli attributi dell'individuo. Questa è la quinta, in alto a sinistra i punti isolati. La presenza, con alcune eccezioni, vedete qui, la presenza di una bella divisione, diciamo così, bella nel senso che è chiara, tra femmine e maschi, e anche qua un'area del network che consente di identificare una leadership con poi un'area di rapporti più stretti, attivati con maggiore frequenza. Ma questo è servito soltanto per farvi vedere come poi i dati che noi raccogliamo hanno una potenzialità grafica, e poi vedremo quali sono le potenzialità e i limiti del commento soltanto, come si chiamano, sociogrammi, soltanto dei sociogrammi, cioè dei disegni delle reti, d'accordo? E quali sono i limiti in modo particolare che nei quali si può incorrere se ci fermassimo soltanto all'analisi delle reti. E allora, fatto questa, diciamo, panoramica introduttiva, vediamo a che cosa serve l'analisi dei reticoli. Quindi il riferimento testuale è il primo capitolo dei volumi di Chiesi. Noi abbiamo visto, l'abbiamo presentato, l'abbiamo visto parlare di rete, abbiamo parlato della rete come concetto generale, cosa significa prenderla sul serio, sociologia, studiarla, eccetera. Io vi ho detto più di una volta, attenzione, perché quando si fa una scelta di paradigma, poi si determina in larga misura quello che noi riusciamo o non riusciamo, per converso, a vedere. D'accordo? Ecco, qui mettiamo nero su bianco rispetto a questa assunzione di campo, questa scelta di campo. Se noi utilizziamo queste tecniche, stiamo condividendo questi postulati relativi alla realtà sociale. Abbiamo visto una versione di questo quando abbiamo parlato di, non so se ve lo ricordate, di Barry Wellman, che parlava appunto dei punti dell'analisi di rete come paradigmi, vedendo il testo dell'articolo. Questi sono i postulati che presenta in apertura Chiesi. Primo postulato, relativo alla realtà sociale. Il comportamento dell'autore si interpreta soprattutto in termini di vincoli strutturali all'azione, piuttosto che in termini di libertà tra azioni differenti. Quindi, esempio, il rendimento scolastico dei soggetti che abbiamo visto in quella classe sarà interpretabile come vincoli strutturali all'azione dei soggetti posti dalla rete dentro la quale sono collocati. Ok? Spieghiamo il comportamento a partire dai vincoli strutturali all'azione, piuttosto che in termini di libertà di scelta tra azioni differenti. Secondo, i fenomeni sociali, secondo postulato, devono essere spiegati attraverso le relazioni tra gli elementi, invece che attraverso le caratteristiche degli elementi. E questo è chiaro, abbiamo ripetuto molte volte. Quindi, spiegazione a partire attraverso le relazioni tra gli elementi, invece che attraverso le caratteristiche degli elementi. Terzo postulato, tutto chiaro fino a là? Ci richiamo subito Wellman. Le tecniche di analisi dei reticoli si concentrano sulla natura relazionale della struttura sociale e sostituiscono o integrano le tecniche statistiche classiche, che invece si basano su elementi indipendenti tra loro. Faccio un esempio molto semplice di questo, provando a immaginare. Poniamo che voi abbiate un bacino di utenza, dopo un qualche evento catastrofico, di 4.000 persone. Ok? 4.000 persone. Allora dovete costruire degli interventi di sostegno che siano tarate sui bisogni e le necessità di queste persone. Ok? Per ricostruire questo oggetto di studio, cioè le necessità, i bisogni sociali degli individui, eccetera, in modo che sia attendibile rispetto a quello che trovate, avete due strategie rispetto a quello che abbiamo visto finora. La prima è quella di pescare un campione probabilistico di queste 4.000 persone. Pescate questi soggetti e su questi raccogliete delle informazioni che riguardino le loro caratteristiche individuali. Dopodiché l'informazione che avrete sarà un'aggregazione e tutta più un incrocio tra le caratteristiche di questi soggetti. Ok? Costruite le informazioni sull'oggetto della ricerca a partire dalle loro caratteristiche individuali, e sarà tanto migliore questa indagine quanto più avrete dato a ciascuno di questi soggetti una probabilità nota e uguale a quella dei soggetti che e gli sono simili di essere pescati all'interno della ricetta. Ok? Dico, è fine a se stessa questa cosa. Come fine a se stessa? Non va a guardare le relazioni. Ecco, se procedete in questo modo, quando così sto facendo l'esempio, si parla di tecniche statistiche classiche, ok? Se procedete in questa maniera, è chiaro che non dovete partire dalle relazioni per pescare i soggetti, anzi non vi interessano, cioè potrete chiedere a ciascuno di loro che idea hanno delle relazioni, se questa variabile è, se sono soddisfatti, cioè comunque la loro percezione individuale. Oppure potreste, faccio un esempio in alternativa, attivare un qualche tipo di sostegno immediato, prendere le prime quattro persone che si presentano a questo sportello e chiedere a loro di darvi delle informazioni e poi di raccontarvi e usare uno strumento per da somministrare alle loro reti per ricostruire le reti di queste persone. Ecco, in questo caso voi non avete dato a tutti la stessa possibilità, la stessa probabilità di essere pescati, ma avete messo al centro la raccolta delle informazioni sulle reti. Ora faccio questo esempio, che vede da una parte addirittura un'idea di campione probabilistico e dall'altra no, per farvi notare come pure in questo secondo scenario però emerga la centralità delle reti e della necessità di ricostruire le reti. In realtà poi si possono ricostruire le reti anche su campioni probabilistici utilizzando le tecniche di personal network analysis, poi vedremo più avanti come fare. Ecco, però cambia la scelta del campione, cambia la scelta del campione. Certo che cambia, però le due mete, voi potreste, allora io adesso faccio un esempio di campionamento probabilistico nel primo caso e non probabilistico nel secondo, poi tornerò su questi temi, li vedremo bene, d'accordo? Si possono usare nell'analisi dei reticoli sociali sia strategie non probabilistiche, che l'esempio che ho fatto, che strategie probabilistiche. Cioè voi pescate gli N soggetti che abbiamo detto prima e poi chiedete a ciascuno di questi di raccontarvi la rete che c'è intorno a lui. D'accordo? Quindi in ogni caso rispettate, però non prescindete dalla raccolta di informazioni sulle relazioni che questo soggetto ha e sulle relazioni che hanno i soggetti che con lui sono in legame diretto. Questa strategia di raccolta dati si chiama registrazione delle reti cognitive, poi vedremo che questo è molto semplice tecnicamente, d'accordo? Però è quello che voglio dire con questa, diciamo, è darvi un po' l'idea di che cosa significa integrare o addirittura sostituire le tecniche statistiche classiche, che non sono fatte per avere come unità di analisi di riferimento i legami, questi, ma sono fatte per avere come unità di analisi target, sono gli individui, non le relazioni tra loro. Noi invece avremo, se utilizziamo queste tecniche, le relazioni come punto di centrale di fuoco della nostra attenzione. Quarto postulato finale: la forma delle relazioni può essere in parte spiegata come l'esito delle scelte degli attori individuali o collettivi che rappresentano i nodi del reticolo. Quindi la forma finale in parte si spiega come l'esito delle scelte degli attori. È chiaro quindi che abbiamo un'idea di libera scelta da parte dei soggetti, però questa libera scelta si esercita dentro il condizionamento che è fornito dalla struttura. Okay? È importante presentare diciamo così, postulati, perché quando poi si utilizza la social network analysis non si riesce a spiegare, cioè a dare conto dei fenomeni che troviamo, a spiegare i fenomeni se non dentro questo orizzonte. D'accordo? È una, è un, sono, sono tecniche che non mettono al centro il soggetto, che non mettono al centro l'attore. D'accordo? Sì, cioè nel senso che ma non è una scelta, come dire, di carattere ontologico o non so, valoriale, semplicemente riconoscono al soggetto una certa rilevanza, è libero, ma dentro il condizionamento. A noi interessa capire qual è il condizionamento per cui un soggetto non riesce a uscire da una situazione di bisogno, perché le sue reti glielo impediscono, d'accordo? Quindi l'operatore sociale lì interviene per modificare la struttura, non l'apparato delle motivazioni del soggetto, anche quello evidentemente, però seppur un soggetto è straordinariamente motivato, dentro una rete che non gli consente di fare alcune cose, non le potrà fare, d'accordo? Questo è molto importante, perché per quanto vi riguarda la vostra specifica formazione, vale non solo il discorso della identificazione delle caratteristiche delle reti, ma pure quello dell'intervento sulle reti, cioè favorire una configurazione più adeguata, ma devo sapere in che link c'è tra la configurazione che voglio produrre e le possibilità che do agli attori. Quelli poi avranno naturalmente la libertà di scegliere di approfittare o meno delle reti più vantaggiose, d'accordo? Però io devo in qualche modo sapere che collegamento c'è tra un certo tipo di rete e la possibilità che un soggetto svolga o meno un'azione. Quindi se la trovo la favorisco, se non la trovo in qualche modo cerco di favorire una configurazione adeguata. Questo qua si può rilevare sia dal punto di vista, diciamo così, del manese della rete, hanno sempre una situazione di crisi sulla società difesa con popolazione, ma potrebbe essere anche ribaltata anche all'interno dell'organizzazione che interviene, cioè tra la struttura dei volontari dentro l'organizzazione. Eh beh, certo, eh beh, certo, come si relazionano, voglio dire, assolutamente le squadre che intervengono o come le devi mettere in relazione, assolutamente. Se lei, se lei deve gestire, poniamo che lei si trovi di fronte, no, allora pigliate questa laurea, andate a lavorare con una ONG, dico bene, allora voi dovete, lei deve gestire queste 10 persone. Ok, questa è lei, d'accordo? Lei deve gestire, deve organizzarli per fare le cose. Naturalmente lei c'è in mente il suo piano operativo costruito a tavolino, in base alla sua esperienza, ma guardando quello che accade, secondo i regolamenti, eccetera, no? E decide di organizzare un certo tipo di... Cioè questi devono andare sul campo e magari la prima cosa che devono fare, perché lei ha avuto la sfortuna di incontrarli nel suo percorso formativo, è di raccogliere delle informazioni sulle relazioni che ci sono tra i soggetti da assistere, d'accordo? Ecco, se pensassi di avere di fronte una situazione di questo tipo, ponendo che questi lavorano già assieme, insomma, avrebbe, come dire, l'idea di qualcosa che è altamente improbabile, d'accordo? Allora poniamo che lei riesca a capire che tipo di legami di espressivi, cioè amicali, ci sono tra queste persone che lavorano assieme. In genere non lavorano assieme. Come in genere non lavorano assieme? E quando organizzi le squadre, i presidi delle squadre, all'interno della squadra ci possono essere soggetti che lavorano insieme. Sì. Ma non si, cioè, dal punto di vista di formare volte, perché insieme in squadra con soggetti che non si sono mai visti prima. Sì. E allora, però dire, voglio dire, perché dai un compito nel momento in cui lavorano assieme per un anno o sei mesi o un mese, quello che è, non possiamo immaginare che non nasca una struttura relazionale tra di loro all'inizio, no, sì. All'inizio magari sarà dovuta a quello che chiede l'organizzatore, però poi questi soggetti tenderanno un po', come dire, ad aggregarsi o no, questo non è possibile. Pensavo aggregati in una maniera anche di gestire le squadre, quando tu gestisci i cantieri, gestisci le squadre, abbiamo fatto un esperimento di un'esercitazione, di spaccare le squadre di volontariato che nascono già con squadre, che arrivano con squadra, dividerle, spaccare, mettendo i soggetti, i 5 che arrivano, i 7 di là, mescolandoli per favorire le relazioni e capire come possono lavorare tra di loro utilizzando strumenti conosciuti, ma di riuscire a metterle in relazione. Secondo la fattaccia, adesso guardando questo mi è venuto in mente quell'esperimento, che è uno esperimento più operativo, ma volevo cercare di capire. Oddio, quello è uno esperimento operativo, ma l'esito che ha è proprio quello di, come dire, di favorire il coordinamento, cioè proprio favorire il coordinamento, cioè se queste persone sono abituate ad essere, facciamo questo esempio con il vostro collega che è delle Forze Armate l'altra volta, se queste persone sono abituate a lavorare assieme con un coordinatore, è chiaro che arriva un gruppo organizzato, d'accordo? Poniamo che però il coordinatore cambi nel corso del tempo, facciamo un esempio assurdo, che sia l'unico gruppo a dover operare e viene cambiato il coordinatore, d'accordo? Se dentro il gruppo c'è una situazione di questo tipo, per esempio tra queste persone, e mentre questi sono collegati tra di loro in maniera più classica, questa area della rete per un nuovo coordinatore è un problema. Questo è un problema molto serio all'interno della rete, perché non lo coordina. Allora, se organizzo il Zante, un servizio che preveda di rompere queste situazioni, e tu prendi questo e lo mandi in un gruppo con altri che non conosce, che non si conoscono tra di loro, questo da un'altra parte, questo dall'altra, di fatto rendo più probabile il coordinamento da parte di chi organizza. Sarà meno probabile che questi diventino amici dopo una settimana tra di loro, ma a me non interessa che diventino amici, mi interessa coordinarli, mi interessa che facciano. Un'altra scelta da parte del coordinamento, ma poteva essere una facilitazione qualora si dovesse ripresentare un altro problema, mettiamo così, di emergenza, conoscendosi, credo sia più facile per loro lavorare assieme. Ma sicuramente più facile, però per fare che? Cioè noi ci dobbiamo chiedere questo, se voi date un compito a 10 persone che non lavorano tra di loro, ma che non si conoscono, questi non discuteranno rispetto al compito, che potranno discutere, sì, potranno discutere con lei, però se si producono delle reti di discussione, si producono delle controculture rispetto a quello che arriva come indicazione, diciamo così tra virgolette, dall'alto. Ora, questo può essere un bene, tendenzialmente chi coordina dall'alto ha una visione generale del problema e tende a dare delle indicazioni, se non lo fa, non c'è modo, non c'è ragione di doverlo ritenere per altri scopi che sono utili, d'accordo? Questo è uno studio tipico, è un caso tipico di sociologia del lavoro. Un gruppo di operai pensa che se l'azienda produce troppo potrebbero perdere il lavoro, e allora decide di tenere, di controllare in maniera informale il livello di produttività. E quindi quando c'è quel tipo? Allora, quando c'è questo tipo qui dentro un'organizzazione, non è, bisogna fare l'esempio, diciamo, specifico, ok? Quando c'è questa situazione qui dentro un'organizzazione, questa area della rete tende a far circolare al suo interno fiduce, valori, rappresentazioni della realtà, condivisione circa ciò che è giusto o sbagliato, cioè costruisce una sua cultura dell'intervento. Cultura dell'intervento significa i valori, diciamo, modalità di intervento che ci sono in campo, le regole migliori da seguire nell'organizzazione, gli scopi che bisogna seguire nei tempi migliori e le risorse migliori per ottenere questi scopi. Se coincide con quella che arriva dall'alto, non c'è problema, ma se non coincide è un casino il coordinamento, cioè non li coordini, cioè non c'è modo di coordinarli. L'unico modo per coordinarli è dividerli. Ok? Se parliamo del sostegno, invece, un gruppo di persone che deve, diciamo, all'interno, che devono superare un momento di malessere psicofisico, eccetera, la presenza di reti, gruppi di questo tipo altamente densi, aiuta. Però non è, una cosa diversa rispetto al coordinamento, d'accordo? E poi noi impareremo a trovare questo tipo di sottogruppo, cioè una porzione del gruppo che si chiama click. Poi impareremo, la click è la porzione del gruppo dove tutti i nodi sono reciprocamente collegati tra di loro. Cioè dentro la click abbiamo una differenza di densità fondamentale rispetto al resto della rete. E c'è una procedura automatizzata col software per trovare tutte le click all'interno di una rete. Ok? Beh, certo. Una volta che voi lo sapete, non è che bisogna fare granché, però bisogna tenere sotto controllo quello che succede. Perché a me è capitato di studiare lo sportello pedagogico, ve l'avevo forse fatto questo esempio, no? In una scuola elementare e in una scuola media ho studiato uno sportello pedagogico dove c'era un gruppo di operatrici quindi ho analizzato i dati raccolti dentro questo sportello aveva gli stessi operatori in una scuola era eccezionale per le famiglie, cioè in un'altra invece no, gli operatori erano diventati scadenti, non erano capaci, non produceva effetti positivi, eccetera. Che cosa è stato scoperto confrontando questa situazione? Che da una parte il docente referente dove funzionava aveva creato dei link ulteriori tra gli operatori volontari e gli attori istituzionali, cioè il dirigente scolastico, il responsabile del psicologico del comune, quelli che danno l'indirizzo al servizio pedagogico, quelli che sanno perché esiste e che scopi deve raggiungere, d'accordo? Nell'altra scuola invece il docente non aveva garantito questa mediazione e quindi gli operatori facevano un po' in scienza e coscienza, diciamo così, è un gruppo molto coeso e quindi anche difficilmente coordinabile, controllabile. L'esito è stato, nella totale buona fede degli operatori, che lì il servizio non funzionasse. Inoltre gli operatori erano ritenuti non capaci, mentre dall'altra parte le stesse persone, io sto parlando delle stesse persone, vi rendete conto, erano diventate contemporaneamente, erano bravissime ed erano invece incapaci dall'altra parte, per gli effetti prodotti, d'accordo? Ma è chiaro che se un gruppo è costituito per raggiungere uno scopo e chi lo costituisce non lo coordina più, lo può raggiungere lo scopo, ma è una cosa casuale, come vincere al Super Enalotto, d'accordo? Può capitare che lo raggiunga, ma non possiamo essere sicuri che questo succeda. Quindi io quando assisto a situazioni di divisione di questo tipo, sicuramente sono situazioni che più o meno volontariamente da parte di chi le produce favoriscono il coordinamento. Perché lei dice troviamo conflittualità, va bene, però adesso io sono io che le prospetto una bomba, perché giustamente poi ciascuno dice la sua, no? Secondo me, in base alla mia esperienza, eccetera. Ma lei immagini che invece gruppi di 5 operatori che sono abituati a lavorare nel suo settore, che sono abituati a lavorare assieme, continuano a lavorare assieme, dovendosi coordinare con altri gruppi di 5 persone, con un nuovo mega coordinatore. Secondo lei questa situazione sarebbe facilmente governabile? Oppure le opposizioni, ci potremmo aspettare che le opposizioni siano ancora più forti, proprio perché reciprocamente suffragate dalle reti di sostegno. Ora, in generale, una rete di questo tipo produce una visione condivisa, una definizione della situazione condivisa tra i membri, più facile che la produca rispetto a una rete senza legami, d'accordo? E di questo in qualche modo bisogna tenere conto, d'accordo? Bene. In sintesi, la struttura sociale, le tipologie di relazioni, condiziona l'agire dei singoli individui e la combinazione delle azioni individuali contribuisce a modificare l'assetto della struttura sociale. Se un soggetto sta più dentro, subirà maggiormente il controllo della rete, subirà maggiormente la presenza di regole, tenderà a rispettarle maggiormente. Le regole di questa porzione della rete sarà sanzionato se non rispetto agli altri, sarà più vincolato rispetto a un soggetto che invece ha una minore quantità di legami, magari è un broker, un mediatore tra porzioni della rete differenti, eccetera. Cioè ciò che farà in qualche modo è condizionato dalla posizione che occupa all'interno della rete, dentro l'ambito, diciamo, della posizione che ha, potrà decidere di agire in un modo invece che un altro, e quindi alla fine la rete in ogni caso è modificata dalla reazione degli individui, se no noi avremo sempre le stesse relazioni, d'accordo? Ma una relazione per romperla la devi avere. per fare il mediatore, per decidere se fare, di fare il mediatore oppure no, deve avere qualcosa da mediare. Ok? Per modificare la struttura del tuo conto corrente comprandoti una macchina che costa 10.000 euro, quei 10.000 euro da spendere devi avere, se no, se non ce li hai non la modifichi, d'accordo? In questo senso. Qui dentro naturalmente c'è il tempo, Quindi, e questa è una cosa che è già immersa, che era immersa a livello teorico, ma che emerge per i tipi di domande che voi fate, ci sono due piani da tenere in considerazione, ma dal punto di vista, diciamo, metrico delle misure che usiamo non cambia nulla. Dobbiamo essere noi capaci di distinguerli a livello teorico. Cioè il piano delle relazioni tra i portatori di bisogno, il piano delle relazioni tra gli operatori e il piano delle relazioni tra le organizzazioni che gestiscono l'emergenza. Cioè la relazione tra soggetti collettivi, tra organizzazioni. E vedremo poi l'ultimo saggio che vedremo in programma, è proprio un esempio di questo. Allora veniamo a questi esempi che fa Chiesi. Allora Chiesi dice: bene, allora adesso io vi faccio vedere alcuni esempi, lo fa in maniera, questo testo è molto bello per la chiarezza con cui affronta, oltre che per la profondità eccetera, ma io voglio in modo particolare evidenziare la chiarezza con cui affronta i temi, li rende molto evidenti secondo me. Gli esempi che fa servono a illustrare la specificità dell'approccio di rete, cioè farci vedere dei fenomeni che sono noti, domande che ci possiamo fare, che la sociologia si è fatta, ma noi stessi ci possiamo fare queste domande nel corso della nostra vita, e come è stato risposto, come si sono trovate delle risposte a queste domande nella ricerca che ha utilizzato queste tecniche. Il primo esempio riguarda la ricerca del lavoro, quali sono i legami che ci consentono di trovare un lavoro, ok? Se i legami sono importanti e quali sono i tipi di legami. Il secondo esempio che ho trovato riguarda la diffusione delle innovazioni, questo è molto interessante, no? Ed è relativo alla probabilità che ha un medico, per esempio, di prescrivere un nuovo farmaco, un farmaco appena uscito, per curare una malattia nota che esiste già, però a un certo punto sarà capitato al medico, dice: senta, provi questo, ho saputo che c'è questo farmaco, lo provi, è buono, eccetera, funziona bene, eccetera, sostituisca il farmaco che stavo usando con questo. Ecco, come si diffondono le innovazioni? Da che cosa dipende? Dalle caratteristiche del medico? Dal posto in cui sta o dalle relazioni che ha? Ecco, queste tecniche fanno vedere, un'applicazione che vedremo, come dipenda, in base alla ricerca che è stata fatta, dalle relazioni, da che tipo di relazioni. Più persone lo proporrà, maggiormente l'innovazione avrà. No, dunque, questo giustamente è, lei parla di diffusione dell'innovazione tra i pazienti. No? Sì. Ma come si diffonde l'innovazione tra i medici? Cioè il fatto che un medico dall'oggi al domani decida di cambiare il farmaco, di dire: ma usi quest'altro farmaco. Cioè, quando è che un medico diventa innovatore? Rispetto a se stesso, cioè rispetto che a se stesso del tempo precedente in cui il farmaco non lo prescriveva. Le relazioni che lui instaura con gli altri medici. Con gli altri medici. E adesso vediamo una ricerca, Una ricerca che colle, ma che parla di questo, poi come si fa a carriera, quali sono i capitali che servono a migliorare la posizione di una certificazione sociale, e infine, esempio molto utile per noi, la densità delle relazioni sociali e il malessere psicofisico, ok? Come si cerca il lavoro? Ecco, è necessario porre al centro dello studio il modo in cui le persone ottengono informazioni sulle opportunità di lavoro per provare a ottenere un nuovo impiego o un impiego che non si ha ancora. È innanzitutto importante avere l'informazione sulla disponibilità di questo posto di lavoro, ok? Allora, qui si parla della circolazione delle informazioni sui lavori disponibili. Quindi occorre analizzare sia il comportamento degli attori a livello micro che la struttura dei flussi informativi del mercato a livello macro. E qui Chiesi presenta due ricerche diverse. La prima è di Mark Granovetter, che riguarda la capacità che hanno i legami deboli di dare delle informazioni di lavoro, cioè legami di semplice conoscenza interpersonale, i legami che sono attivati non di frequente, che non hanno un grande investimento affettivo, non c'è una grande intensità emotiva da parte dei partecipanti, e invece i legami forti. Che differenza c'è tra questi tipi di legami, ricerca di Margaret e Diego, per avere delle informazioni sul posto di lavoro? È strano che l'acqua. Facciamo così, visto che sono le 4, voleva fare una domanda a lei. No, comunque, visto che noi trattiamo le relazioni, no? Anche in realtà quando si cerca un lavoro, trovi meglio il lavoro se si conosce qualcuno che se fai delle ricerche semplici. Sì. Quindi funziona al 100% la questione delle relazioni, conoscenze. Su questo non ci piove, ma tuttora se noi guardiamo diciamo, i dati sui canali, come hai trovato il lavoro chiedendolo, sì. Tra amici, tra conoscenze, la presenza delle relazioni è chiaramente un imprenditore che deve assumere un dipendente, è necessario che si fidi di questa persona. Quindi cosa fa? Ho visto che ha sbagliato il piano. Comunque sa, faccia con calma perché ci fermiamo 5 minuti, va bene? Ok? Lapsus, di gravità che volevo andare. Possiamo aprire un oggetto? Molto volentieri. Approfitto molto volentieri. Grazie. Addirittura dolcetto? Mamma mia, mi prendo il pazzo. È un metà giornata. Io ero in broker. A tutti i miei rapporti legali. Un altro. Buonissimo. Ma mi vizi. È un mito, esperimento. Banana. Vuole fare esperimento? Sì. Io abbiamo combinato fa parte di una squadra che non si è organizzata. Quest'anno hanno vinto ai nazionali, ok? E il gruppo adesso si è spaccato perché proprio a metà, in 10, 5 sono andati in categoria ragazze per passare l'età. Sono rimaste loro 5, un gruppo molto coeso. Quanti anni hanno? 10, 11. Molto coeso perché noi genitori tanto coesi adesso si trovano che sono arrivate due ragazze.